Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere ho. Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, sì, sì, sì, mentre sa che è già provvisorio amore che c'è sì ma forse no. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, buonasera a tutti. E come mai ci sono un'altra volta? Sì, ci sono anche questa sera. Dopo ieri sera la nostra cavalcata sulla musica, sui dati storici, grazie al rock, stasera facciamo due interviste telefoniche. In diretta, chiaramente, una con Riccardo Ceres, che è già al microfono, e poi a seguire con Giuliana, con Giulia di un altro gruppo. Riccardo, ci sei? Sì, sì, ci sono. Buonasera a tutti. Buonasera, Riccardo. Riccardo Ceres, qualcuno ti ha giudicato, ti ha descritto come un cantautore atipico. Cosa ne pensi di questa definizione? Beh, è una definizione sicuramente atipica, nel senso che... Non, grazie per avermi promosso al ruolo di cantautore, insomma, io in realtà racconto solo storiacce, poi a qualcuno piacciono e a quanto pare, insomma, andiamo avanti così. Com'è nato il discorso del disco? Com'è nata la volontà di fare un disco dopo anni e anni di gavetta, Riccardo, in tanti locali, da Caserta verso Roma? Perché a Roma c'è più spazio, perché a Roma qualcuno paga per sentire un cantautore sconosciuto. Forse è questo, diciamo che funziona un po', io la chiamo, è una questione di invecchiamento, nel senso, in un senso relativo sicuramente ai buoni whisky irlandesi, sì. Caserta diciamo che ha coltivato il malto, lo ha cresciuto, lo ha distillato, Roma lo ha protetto un poco negli anni come una botte di rovere e poi... grazie a delle cose che ho fatto in Toscana è stata stappata questa botte e qualcuno ha iniziato a bere un poco di questo whisky, diciamo, e speriamo che continui a piacere, speriamo che tutti si divertano in poltrona, in panciolle, insomma. Certamente, certamente continui a piacere. Tra Tom Waits e Fred Buscaglione, Riccardo, ma... dov'è il vero Riccardo? È fra Tom Waits, Fred Buscaglione o una propria strada, una propria via, quello che penso io? Ma magari fossi tra loro, sarebbe un po' difficile, anche perché uno è, come diciamo noi al sud, è buon'anima, quindi sì, esatto. È un altro irraggiungibile, ho avuto solo il piacere di poterlo ascoltare un paio d'anni fa a Milano, è stato penso il più bel concerto della mia vita. No, sicuramente tutti quanti hanno dei punti di riferimento, insomma, come sound. Ecco, io sono un autodidatta, non conosco la musica, quindi il mio metodo tra virgolette lavorativo è quello di ascoltare il più possibile, studio tramite l'ascolto. Sicuramente sono dei personaggi come tanti altri, ma anche come scrittori o pittori che mi danno delle sensazioni e che io poi spero di poter trasmettere attraverso i miei brani, naturalmente interiorizzandole, facendole mie e dicendole alla me, insomma. Spero che passi questo poi alla fine. E cominciamo allora ad aprire la finestra nel tuo album, che si chiama James Kunisada Carpante. Questo è il nome dell'album, praticamente. E c'è una ragione che tu hai detto, tu hai spiegato James per qual motivo, hai spiegato perché si chiama Kunisada, però non hai spiegato perché si chiama Carpante. Ma Carpante non lo posso dire. Ecco, purtroppo. Carpante non lo puoi dire. James lo puoi dire, però, chiaramente. No, non lo dico perché è un termine dialettale, uno dei tanti termini dialettali delle mie zone, dà un significato un po' crudo. Un po' crudo, diciamo, benissimo. Un po' pulp, diciamo, quindi... visto che siamo seguiti naturalmente da bambini, allora preferisco non dirlo, perché chi ascolta la musica e le persone a cui piace la musica, io le paragono sempre un po' ai bambini, no? Perché certo, la musica ti fa un po' questo effetto. Certamente. Cominciamo con aprire l'album, La Finestra. Io ho scelto il brano iniziale perché mi ricorda molto Fred Buscaglione. Cioè, Riccardo, cosa dici? Di quale brano? Il brano iniziale. Del disco Bloody Night. Bloody Night, esattamente, più che cantato, parlato, se mi è consentito. Sì, assolutamente sì, ti è consentito ed è vero, ti ripeto, perciò sono stato contento che tu mi abbia promosso nel mondo cantautoriale, perché a me piace raccontare tanto le storie, la musica è un po' il set cinematografico delle mie storie, quindi la vedo un po' così. È un brano, sì, un po' particolare, con cui ho voluto aprire il disco per far sì che chi avesse ascoltato quel brano, insomma, avesse buttato il disco dopo 2 secondi se non gli fosse piaciuto, perché era solo, diciamo, un prodromo di quello che avrebbe ascoltato poi successivamente. Più avanti. Benissimo, allora apriamo la finestra con questo Bloody Night. Ringrazio Sergio Bortolami in regia e partiamo con l'avventura con Riccardo Ceres. Blu Radio Sera. La donna da picche. Mi tagliano gli occhi. Cieco, ho caricato la mia pistola con 6 proiettili da un soldo e ho mirato dritto al cuore. Bang! Il primo le lecca la faccia. Il 2 faccilecca. Terzo dritto in una spalla, quarto e quinto un tutt'uno nel paltò blu di canguro, il 6° squeeze. L'hai vista la morte? Com'era da viva? Un bel gelato al cioccolato, francobolli all'efedrina, qualche gelida mattina e poi la notte. Long night. T'ho coperta di birra che ti lava la pelle. Lo sbirro m'ha beccato che succhiavo le tue labbra, strano calice d'amore, un sogno nei sogni, come bolle di sbobba. M'è tornata la scimmia, con il pugno l'ho menato, mi sembrava appena nato per come piangeva il cane nero. Hai visto la sorte? Tu piangi, io sbirro, cin cin. Non era meglio fare l'avvocato, 2 figli, amante, una vespa nuova, una moglie, niente, niente, niente male. We'll be right back. JD di raccollo. È il barista siciliano crocifisso a grandezza naturale, camicia e basettoni molto pallido. E s'appresta la notte nel bar senza giorno. Mentre mi guardava si strusciava la lingua sulla bocca, tipo cobra dagli occhiali neri da sole a mezzanotte. E come fiatava e filava, e come sudava. Pure questa m'ha sporcato di donna, l'unico gessato, quasi quasi l'ammazzo. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Riccardo, ci sei? Sì, sì, ci sono. Benissimo. Ci sono. Giustamente Sergio in regia mi faceva notare, questo è un bluesaccio nel senso positivo del termine. Ah, ok, bene, bene, così deve essere allora, perfetto. Tu hai, ho letto una delle tue interviste e hai scritto che, giustamente come avevi prima detto, che hai un rapporto da ignorante con la musica, nonostante tutto hai diretto un'orchestra di 54 elementi. No, non è proprio esatto, non è proprio esatto. Non è proprio diretto, così. Non è che ho diretto. Io faccio anche colonne sonore per film, mi è capitato di registrare con un'orchestra di 54 elementi, naturalmente le musiche le ha dirette un maestro d'orchestra. Io ero lì da buon orecchista, che semmai gli dicevo ok, questo fa così, quello fa così, eccetera eccetera. Comunque è stata un'emozione incredibile, perché non è una cosa che capita da tutti i giorni, insomma. Cioè, per poter continuare tu fai il grafico, perché la musica non paga, questo è vero. No, io sono un art director, veramente non sono un grafico, ci tengo anche per difendere tutta la categoria degli art director italiani. io ho potuto fare un discorso del genere perché la musica non è che non paga, paga molto poco. Ecco. In Italia c'è un rapporto molto particolare con il live, la musica dal vivo e l'acquistare dischi ed altre cose, insomma. Purtroppo stiamo acquisendo una non cultura di fare tutto quel che si può affinché le cose passino e non rimangano. Ci propinano le major, la televisione, tutti i gruppi o brani che restano in classifica per alcune settimane, insomma, un po' come si sta avverando un po' quello che diceva Andy Warhol, no? Tutti sono famosi o noti per un tot di tempo. Io non ci tengo a questa cosa. Io faccio questo prima di tutto perché mi va di farlo, perché ne ho necessità e non potrei farne a meno. E poi perché vorrei che una persona che mi ascoltasse, avesse il piacere di acquistare un disco o di venirmi ad ascoltare, mi venga ad ascoltare e si interessi a me come persona, per quello che scrivo, per quello che faccio, ed abbia interesse in futuro a sapere io come sia maturato, che cosa ho da dire da 37enne o da 43enne o da 50enne futuro, insomma. Quindi è un po' questo il discorso. Benissimo. A proposito del nome, Kunisawa è un artista giapponese. Vedi caso, tu hai ripreso una canzone dello Zecchino d'Oro. Sì. 25esima edizione del 1982, l'ha inserita nelle 14 tracce. Sì, sì. allora c'è un perché questa cosa. Allora, io non amo fare cover sia dal vivo che nei miei dischi, perché la trovo una cosa, non dico inutile, però ecco, non so se riuscirei ad ascoltare un mio brano cantato da un'altra persona, mi immedesimo nell'altra persona. Siccome il cantautorato è una cosa, secondo me, abbastanza personale, ho deciso di fare questa cosa. Era un'idea che mi balenava in mente da un po' di anni, e ho scelto questa canzone prima di tutto perché ha un significato diverso sia essa cantata da bambini o da una persona adulta. Certo. E poi perché è la prima cassetta che mi hanno regalato in vita mia. Ah, ho capito. Io mi regalò questa cassetta in cui ci sono dei brani, secondo me, musicalmente fantastici proprio, degli arrangiamenti, delle melodie incredibili. E niente, sono rimasto. Poi volevo cantare qualcosa in giapponese, siccome non conosco il giapponese, ho fatto un poco, diciamo, il ladro, certo, di pronunce, e ho scelto di rubare la pronuncia dei bambini, così nessuno mi può dire niente. Ah, indubbiamente. In quel caso, giustamente, anche io pronuncio male, certo. In quel caso il testo era di Giorgio Calabrese, quindi una persona di grande valore. Sì, sì, sì. Questa è poi una cosa che ho scoperto grazie ad Ernesto De Pascale molto dopo, però vedi, poi mi sembra che quasi quasi le cose non succedano mai a caso, quindi certo, sono ancora più felice di questa cosa. Citiamo Ernesto De Pascale perché incidi per l'etichetta Il Popolo del Blues, che è l'etichetta di Ernesto De Pascale. Assolutamente, Ernesto una persona fantastica secondo me, spero di potermi permettere di dire che stiamo diventando cari amici, è una persona simpaticissima, e nell'ambito musicale è proprio raro trovare un animo ed un'anima del genere. Sono felicissimo, veramente c'è una bella intesa e spero che continui ad essere così, perché io mi sto divertendo alla grande, quindi veramente ok. E certo, perché è anche grazie a Ernesto De Pascale sei stato scoperto nel festival di Rock Contest di Controradio, che è il festival più longevo per i gruppi emergenti, Riccardo. Sì, sì, è stato tutto per caso è successo, e ti devo dire la verità, dopo un po' di anni che faccio queste cose non sono sicuramente nessuno, però sai, continuare a partecipare alle manifestazioni e ai concorsi diventa un po' deprimente, perché poi alla fine insomma ti vai a scontrare con delle realtà molto più giovanili, non so come spiegarti, io mi sento giovane, sono giovane, ho 31 anni. Cioè giovanissimo, però, rispetto sì, a me che ne ho molti molti di più. Però dalla voce non si direbbe. Però l'età anagrafica è quella là, può confermare Sergio che è dietro al vetro. Diciamoci la verità, ancora una volta il Rock Contest, lo dice stesso il nome, io non faccio rock. Mi sono ritrovato in una energia fantastica, positiva, ma sicuramente non mirata ad un contesto di musica d'autore come potrebbe essere, per esempio, non so, voglio dire, un premio Tenco, sì, certo, un premio certo. Bin. Quindi, voglio dire, è stato bello proprio per questo, perché in un contesto del genere, dove semmai io ero un po' la pecora nera, sì, no, è vero, avere comunque dei consensi in un palazzetto enorme come la Flog, dove ci sono persone venute ad ascoltare funky, rock and roll, non lo so, grunge, non saprei neanche che generi dirti, insomma, avere dei consensi lì per me è stato ancora più bello. Certamente, indubbiamente. Cantautoriale, insomma. Indubbiamente. Facciamo sentire un altro pezzo. Io ho scelto la traccia numero 9, che è molto, secondo me, è fatta bene musicalmente, è frizzante. Sale d'amore. Cosa ne dici? Parliamo assieme prima o vuoi? Prima la sentiamo. Come vuoi tu. E la sentiamo, allora la sentiamo prima e poi ne parliamo, ok? Va bene, ok, perfetto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La luna è è alta nel blu. I gatti miagolan d'amore parlando di noi. In strada un silenzio italiano ed io a fumare sul divano, la fronte imperlata dal vino che rende algido il cuore. Guardami, anche se non sono lì, e un mare di stelle separa i miei occhi dai tuoi. Soffiami in ogni respiro tuo e gonfia la seta sul petto che stilla sudore, che asciugo con l'ultimo bacio e lascia le labbra salate di sale che sala la vita e sale d'amore. Sale d'amore. Ah. Radio Sera. Riccardo, ci sei? Certamente. Bellissimo. Questo era un pezzo un po' sudamericano, tra virgolette. Cosa dici, Riccardo? Beh, ma io non lo definirei così, se mi permetti questa cosa. Questa è una, secondo me, è sicuramente un ritmo sudamericano, una begin. Io però sono figlio dei primo di maggio passati con mio nonno . E dei matrimoni. Ah, perfetto. Dove si suonavano queste canzoni. E io penso che invece sia forse il pezzo proprio più italiano che è all'interno del mio disco. E io adoro la musica italiana e sono italiano e mi sento italiano. Purtroppo sono uno di quelli che ha detto no all'immigrazione, perché sono un po' testardo, diciamo. Non voglio entrare nel merito perché non mi piace parlare di politica, non mi piace parlare di queste cose, perché la musica con la politica e con queste cose secondo me non deve entrare mai. Assolutamente. Esattamente. No, assolutamente. Invece però dovrebbe essere motore di un pensiero sociale, secondo me. Dovrebbe essere una questione di, diciamo, sai quella stellina che, come il grillo parlante, che ti fa riflettere un poco, poi ognuno prende le sue decisioni. Questo è un brano, io direi, romantico, lo chiamerei così, un brano romantico italiano, scritto a Caserta, davvero in una notte di silenzio italiano, che non è mai silenzio, perché soprattutto da noi giù puoi sentire le grida anche alle 3 di notte, insomma. Poi io abitavo in un condominio al quinto piano, quindi di notte sentivo tutti questi motorini, queste persone, eccetera, eccetera. Era estate, faceva tanto caldo. E la notte a volte è veramente una cosa su cui scrivere e che ti fa scrivere, insomma, tutto qui. Certamente. Solo così, insomma. A proposito, sì, tu hai imparato a suonare la chitarra a casa della nonna, è vero? Sì, no, io ho iniziato durante un'occupazione, perché ho dei trascorsi, diciamo, da attivista durante il periodo, parliamo degli anni, inizio anni 90, insomma, quando i movimenti studenteschi stavano andando verso la fine, però c'era veramente uno zoccolo duro che diceva delle cose, almeno secondo noi era così. E, sì, poi sono andato via di casa e... Io ero uno studente di medicina, sono andato via di casa e sono stato 3 notti all'Addiaccio, poi si è ospitalizzato a mia nonna. Posso dire di essere stato uno dei pochi che può dire di essere andato via da casa con lo zainone e il cane e la chitarra, come un adesivo che girava tanti anni fa, non so se te lo ricordi. Sì, sì, sì. Esatto, era la verità, è la verità. E niente, mio nonno era un appassionato di canzoni classiche napoletane, aveva una voce formidabile, ancora me lo ricordo quando cantava a volte. E niente, quando andavo in bagno molto spesso, invece sai, di portarsi le riviste o di cose, io portavo la chitarra e così scrissi questo brano che si chiamava Ottobre. E lo mandai al Festival di Recanati. All'epoca le regole erano un po' diverse, comunque rientrai in una rosa di persone insomma che potevano mirare ad avere il loro brano all'interno della compilation della manifestazione. Dissi, caspita, allora non sono, cioè non faccio proprio canzonette, perché all'inizio mi divertivo e dicevo faccio ste canzonette così, anche perché venivo da un ambiente molto più funk, rock, insomma, ho fatto un po' di cose prima di giungere alla musica d'autore e poi ho iniziato a scrivere così, insomma. E poi hai cominciato a scrivere, sei approdato finalmente al Rock Festival organizzato da Ernesto De Pascale e adesso porti avanti questa tournée che si chiama James con Isada Carpante, chiaramente, è anche uno spettacolo. Sì, assolutamente, uno spettacolo di 17 brani inediti, ci tengo al 17 perché sono completamente a favore del viola sul palco e del 17 perfetto. Come numero, perché mi hanno sempre portato fortuna, per me queste sono un po' delle superstizioni, ma si può dire cazzate? Sì, sì, possiamo dirlo. Ok, vabbè, sono delle cazzate, insomma. Quindi niente, adesso saremo a Firenze il 29, si può anche dire il locale? Sì, certo. Quindi. Ok, alla Spalmas, in una formazione un po' particolare, in trio, e in futuro saremo a Castellina Marittima in un bellissimo festival in cui mi hanno invitato in provincia di Pisa proprio la notte del 15 agosto, quindi una cosa per me almeno fantastica, perché sono, sai, Capodanno e Ferragosto sono sempre le date in cui bisogna organizzare qualcosa e non si sa che fare, quindi certo. Io quest'anno c'ho proprio una cosa bella da fare e poi sicuramente in altre occasioni stiamo programmando con il Popolo del Blues delle serate per la prossima stagione, naturalmente, che tu sai che è sempre così, no? Ci sono un po' di mesi prima per organizzare dei concerti. Sicuramente sarò a Roma, sicuramente sarò a Firenze, molto probabilmente Bologna, Milano, insomma. Spero soprattutto di essere anche in Veneto. È dalle nostre parti, Riccardo. Che stasera indirettamente è la prima volta che sono in Veneto. Bene, non sarà l'ultima sicuramente. Sono orgoglioso, insomma, di questa cosa, è fantastico per me. Spero che qualcuno, insomma, di buona volontà mi lasci dire un po' di cretinate per un'oretta e mezzo, 2 ore, insomma. Benissimo, allora concludiamo questa bella cavalcata, questa bella conversazione con Riccardo. Io ho scelto il brano, la traccia numero 10, Riccardo, perché mi piaceva anche quella, subito la 9 e la 10, un altro bel pezzo, fatto bene, perché molto con dei testi anche qualche volta ironici e una musica col sax e chitarra abbastanza scheletrica in alcuni momenti, ma non è proprio così, dopo si sviluppa, si amplia, è un bel discorso secondo me musicale. Va bene, ascoltiamolo allora. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Signorina, ci svegliamo, lo prendiamo sto caffè, state nera, bevete nero che la soluzione c'è, e lo zucchero vi riempie e poi non capite niente, come a letto con il diavolo, come fosse un filtro magico che v'ho messo tra le dita, giusto in men che se ne dica, e non ve ne siete accorta di portarvelo alla bocca che Leonardo dipingeva 17 volte al giorno, v'ho guardata come un cieco e voi abbandonata al sonno. Al sonno, sì. E v'ho vista dormivate, abbracciata dall'estate, e le lucciole lì attorno serbar luce al nuovo giorno. Eravate notte fresca che mi coccolava il cuore, troppo in ansia per la fretta di lasciare la ragione. La ragione la lasciavo a chi vuole ragionare, brigadier, ragionando non si può parlare l'amore. E di nuovo, signorina, che ne dite, ci svegliamo, sulla tenda spinge il giorno, e fu abbandonata al sonno. Al sonno, sì. Vizio muzzo che capato, vaso bello spiulinato, bocca e mare, bocca bella, vostro mare un'area stella, stelle cielo, stelle terra, va balla sta tarantella, innamorato, sguaiatella, per voi che si dà più abbiamo fatto per non fare sì che, e la mente lo diceva che la tratteneva il cuore, pulcinella mio dell'anima m'ha fregato all'occasione, l'occasione crea dei sogni però a volte sono sbagliati, sulla pietra detta mondo pure i sogni controllati, miei signori della corte sono pronto per la gogna, so potente, so carogna, preferisco sogni e sonno, e il sonno sì. Vizio muzzo che capata, vaso bello sviolinata, bocca e mare, bocca bella, per stumare un'area stella, stelle cielo, stelle terra, va balla sta tarantella, innamorata, sguaiatella. Per voi che si dà più bella, vizio muzzo che capata, due maronne che capata, dallo suono si dà asciuto, maravata, appena nata, secondo luna, secondo sole, ma chi vola fa l'amore, che pensiero e che virtù, ma non vuoi venire più. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, Riccardo, grazie della telefonata, di questa conversazione molto bella, grazie, così abbiamo capito la musica di Riccardo Ceres. Se hai un sito, Riccardo, lo puoi citare? Sì, allora io do sempre il mio space, www.myspace.com/rceres, e spero di poterti incontrare, di poter incontrare le persone che semmai stasera hanno apprezzato i miei brani lì in Veneto, anche perché a me piace mangiare e piace bere bene, ecco, che Veneto, benissimo. Questa è una cosa fantastica. facciamo uno scambio culturale. Molto bene. Porto un po' di pastiera e voi mi date un po' di cose. Ricordiamo l'etichetta, Riccardo. Il Popolo del Blues, distribuito Audio Globo, e quindi il disco si può trovare in qualsiasi negozio di dischi. In qualsiasi negozio, oppure lo ordinate direttamente sul sito www.audioglobo.com. Spero che lo ordiniate, insomma, anche perché così siamo felici tutti quanti. Grazie di tutto, Riccardo, e a risentirci qua nel Veneto, chiaramente. Grazie a te, grazie. Ciao, a te. Grazie. Un ciao. Bacio a tutti. Ciao, ciao. Blu Radio Sera.